L'amore comporta normali passaggi, la nascita, il dono, il gioco e il dolore. L'amore comporta delitti e rimpianti, rimuove, ti nutre, ti chiude anche gli occhi. L'amore comporta avere da fare, schivando i pensieri che remano contro. L'amore comporta un linguaggio a sé stante, i nomi abbreviati diventano i nostri. L'amore ti annaffia e ti gonfia le guance, ti mette le ali e vai su, ti toglie gli odori che hai preso per strada, pulisce, rinnova e vai su. L'amore comporta rubare cognomi, per essere fedeli si invita e si giura. L'amore comporta bruciare le tappe, il distacco dal resto è così naturale. L'amore comporta riempire valigie, partire, stupire, subire, amarsi a tal punto che togli il futuro. L'amore è il quartiere migliore dove abiterò. Un amore nasce dal coraggio, forma l'ambizione di cambiare il mondo. Un amore può degenerare, può rassicurare, tende a ribaltare. Un amore soffre le paure, ti fa rinunciare, nonostante tutto ti salva. Quartiere migliore dove abiterò.